Lacrime anche quando uno dei medici del GSF, visibilmente scosso, racconta di violenze indiscriminate delle forze di polizia. Ragazze sedute su un muretto durante un corteo, scaraventate nel cortile. La storia di tre ragazze sedute su un muretto si trovano improvvisamente in mezzo agli scontri. La polizia carica da una parte, carica dall'altra, sono lì ferme, scendono dal muretto, sono nel panico, non sanno che cosa fare. Arriva la polizia, le prende una dopo l'altra, le scaraventa giù da questo muretto di 3 metri, queste cadono una sopra l'altra, una ha una frattura tripla scomposta, le altre piombano addosso a queste. Dall'alto del muretto la polizia gli spara addosso dei lacrimogeni. In questo contesto, nel punto in cui arrivano in basso, si apre una porta da dietro e un signore le trascina dentro un garage, chiude la porta e solo a questo punto finalmente la polizia se ne va. Questa ragazza Fondamentalmente viene raccolta il bersaglio era il cranio. Noi, nella giornata di venerdì, quando abbiamo soccorso con l'ambulanza almeno una cinquantina di feriti dorsolacero contusi, abbiamo visto ferite del cuoio capelluto in più punti, non in un unico punto. Le crisi asmatiche determinate dal lancio del fumo dei lacrimogeni. Il primo giorno noi abbiamo avuto due medici e un infermiere ricoverati in ospedale perché sono stati attaccati da un poliziotto. L'episodio più grave è successo in realtà durante la manifestazione. Noi avevamo 3 mezzi molto ben riconoscibili, c'erano delle croci rosse stampate da tutte le parti. A un certo punto è successo l'episodio più grave. Passando vicino a un gruppo di poliziotti che fronteggiavano dei manifestanti, un poliziotto ha preso il manganello da 1 metro di distanza, ha spaccato con la punta un vetro, ha preso questo pistolone che lanciano i lacrimogeni, l'ha infilato dentro e ha sparato un lacrimogeno dentro all'ambulanza. Immaginatevi che cosa sia successo dentro quell'ambulanza. Chiamato da alcuni compagni per venire a vedere cosa stava succedendo nel pronto soccorso verso le 2 mezza di notte, tra sabato e domenica. Il pronto soccorso era invaso da feriti e soprattutto da poliziotti. I poliziotti entravano dentro le sale mediche. Domenica pomeriggio mi sono recato con l'onorevole Pinotti, LDS qui di Genova, per cercare di andare a parlare con i feriti, alcuni feriti. I poliziotti di Piantone non volevano farci comunicare con questi, quindi telefonate varie, prefettura, questura, eccetera, eccetera. Alla fine si sono decisi a lasciare entrare l'onorevole Pinotti e mia figlia, che l'ha fatto da interprete. Sono andati prima dalla ragazza, una ragazza tedesca, Lena Zulke, che era con un drenaggio toracico, perché anche lei ha avuto uno sfondamento della gabbia toracica. E questa ragazza che ha detto, appunto, che è una ragazza di 20 anni che studia lingue orientali, vegetariana, ci ha raccontato di cosa era successo. Da 5 minuti era entrata nella scuola Pascoli per andare a dormire assieme al suo ragazzo. Hanno sentito il frastuono e allora così ingenuamente hanno pensato di scappare più in alto possibile su al terzo piano, dove si sono rinchiuse dentro una stanzetta. Sono state raggiunte comunque, la ragazza picchiata col manganello era preoccupata per il suo ragazzo perché aveva visto che i poliziotti gli battevano un estintore sulla testa. Nella stanza accanto c'era invece il corrispondente della BBC, Mark William Cogle. Quando sono uscite, Pinotti e mia figlia avevano le lacrime agli occhi. Il volto era una maschera di ematomi. Ha raccontato che lui è andato dal centro media, era andato a trovare delle amiche nella scuola e si è trovato poi dopo in mezzo quando sono arrivati le forze dell'ordine. La sua espressione è stata questa: mi hanno trattato come fossi un pallone da football. Sì, io c'ero quella sera. Guarda, mi spiace non si può vedere in radio, ma quando parlo della scuola mi viene la pelle d'oca ancora ora. Come medici del GSF eravamo nel secondo piano nella stanza medica e a un certo punto abbiamo sentito, proprio di fronte all'ingresso della scuola, abbiamo sentito urlare la polizia, ci siamo affacciati alla finestra. Questo direi che è abbastanza importante perché oggi ho letto l'intervista di De Gennaro che faceva diceva questa cosa: la polizia è entrata, gli hanno tirato dei sassi, hanno dovuto attaccare la scuola. Ecco, questa cosa è assolutamente falsa. Io sono pronto a testimoniare in tribunale anche su questa cosa. ho visto scendere dalla via, è una via leggermente in discesa, 100-200 poliziotti compatti, manganelli in mano, urlando, che si sono lanciati verso il cancello della scuola. E tra l'altro ho stampato nella memoria questo ragazzo che potrebbe essere anche Covel, non sono sicuro, perché Covel è stato il primo che è arrivato in pronto soccorso ed è stato il primo codice rosso dei 3 giorni di manifestazione. Io posso dire questo: quando organizzavamo l'assistenza sanitaria, prima dell'inizio delle giornate, il G8, è comparsa questa cosa, stava allestendo nella caserma, ora tristemente nota, di Bolzaneto, questa infermeria gestita direttamente dalla polizia. Questa cosa ci aveva allarmato per la palese violazione dei principi su cui si fonda la sanità in questo paese. Non c'è nessun tipo di garanzia, il problema è questo. Un infermiere ha visto questo ragazzo tedesco, non solo piantonato naturalmente, ma ammanettato a letto. L'infermiere ha chiesto ragione di questo ai poliziotti e gli è stato risposto: abbiamo perso le chiavi. Questo è solamente un annuncio di quello che poi è successo nella caserma di Bolzaneto, che adesso qui a Genova cominciano a chiamare la casa delle libertà.